Ben arrivati nella mansarda del Dottor Pirate, un luogo denso di emozioni. Per questo parleremo di Logan, di Hugh Jackman e Wolverine, una simbiosi potente e perfetta tra attore e personaggio. Non esisterà mai un'altra persona su questo pianeta in grado di far meglio. Però i film su Wolverine sono stati brutti, stupidi, osceni. Sarebbe il caso di rimediare a questa nefandezza, magari con l'ultimo capitolo. La speranza è l'ultima a morire e già il trailer ci aveva messo i brividi. Musiche di Johnny Cash, emozioni ovunque, Hugh Jackman che con la barba pareva Mel Gibson, ci faceva capire che il film voleva prendersi molto sul serio. Diciamo subito che Logan è un bel film, anzi è anche più che bello, è in grado di emozionare. Il merito è sicuramente dato anche dal fatto che è vietato ai minori di 14 anni. Escludere i bambini è sempre una mossa vincente. Ora Wolverine, o meglio Logan, perché è più vicino a Logan che a Wolverine, può affettare, tagliare arti, maciullare in modo corretto, senza telecamere impazzite che non fanno capire niente, perché i bambini rompipalle finalmente non possono entrare al cinema. Ottima mossa, Wolverine è incazzato come mai l'abbiamo mai visto prima, ed è come sempre sarebbe dovuto essere rappresentato, perché quando un mutante è grosso come un armadio e dotato di artigli comincia ad affettare gente, io personalmente mi aspetto di vedere su schermo un mutante grosso come un armadio dotato di artigli che affetta gente, e non una cozzaglia di immagini che mi vengono consegnate da una telecamera schizofrenica, che non mi fa capire niente per non turbare gli infanti, meglio tardi che mai. La violenza è brutale, tangibile, c'è sangue, tanto sangue. La sofferenza è vera, i drammi interiori di Logan ci fanno capire di più sul personaggio. Forse il suo nemico principale è sempre stato Wolverine. Il film è violento tanto quanto denso di emozioni e sentimenti. Finalmente Wolverine, Logan, può essere umano, può essere fragile, può essere violento e pieno di rabbia. Ci viene consegnata la visione che sempre avremmo voluto vedere. Ormai i mutanti sono quasi del tutto spariti, vive come un reietto in Messico, fa l'autista, i fasti di un tempo sono finiti, zoppica, ha il corpo pieno di cicatrici ed è cinico e disilluso, fighissimo nella sua decadenza, il volto mostra i suoi anni, e comunque ha sempre una fisichetta da paura, in grado di mandare in visibilio le donne, forse un Wolverine con la panza e la perata sarebbe stato eccessivo e non abbastanza badass. Accudisce il professor Xavier, ormai vecchio, anzi, vecchissimo, con problemi di senilità. Rimane comunque sempre un punto di riferimento importante per Logan e dispensa perle di saggezza. Il film fondamentalmente è una sorta di road movie. Logan, Xavier e Laura, una ragazzina mutante tostissima, bellissima, se la dovranno vedere con i cattivi. Non abbiamo scopi grandiosi come salvare il mondo da mentecatti con manie di grandezza, ed è questa una delle grandezze del film. Qua quel che conta è salvare la bambina e probabilmente fare i conti con se stessi, cercare di evitare un destino già scritto, combattere. Cinico e nichilista, come l'eroe di molti film western, Logan accetterà la missione, in un viaggio fatto di violenza, ma anche con qualche momento di tenerezza. Poca, a dire il vero. La pellicola fa fare un salto di qualità ai film sui supereroi, discostandosi da certe plasticosità da cui siamo stati afflitti. Porta maturità e ci fa capire che gli eroi in calzamaglia hanno stancato. Hugh Jackman troneggia. Io penso che in cuor suo sia stato veramente soddisfatto di vedere il suo personaggio finalmente rappresentato in modo corretto. La sua prova è esemplare. Patrick Stewart ha sempre la solita classe innata e la piccola Daphne Keane è stupenda, tenerissima, ma anche una macchina da guerra. Logan riporta speranza al cinema supereroistico. Alla fine possiamo fare diverse considerazioni. Io vedo un senso di fatalità che domina tutto il film, perché non possiamo far niente di fronte a un destino più grosso di noi, solo impegnarci al massimo, vivere al massimo il nostro tempo, questo ci è concesso. Per cui, emozioniamoci e buona visione.